qualche giorno il vostro cervello ricomincerà a funzionare. Tra qualche giorno il vostro cervello ricomincerà a funzionare. We'll be right back. Ora permettete che vi presenti lo straordinario uomo gorilla. Salutare questo gentile pubblico, prego! We'll be right back.

dico che la droga è morta. Ti dico che la droga è morta. Ti dico che la droga è morta.